Alors bonjour, aujourd'hui on est samedi, je ne sais pas quelle heure. Au début du rendu, on va aller faire un petit tour. Bonjour Jules. Ça va bien? Quand nos projets sont projetés, voilà. Okay, donc, il faut qu'on parle. Donc la règle est claire. Hein. Parole? Yes. Che adesso cominciamo e lui chiude con la sua conferenza. Perché se lo fa adesso nessuno lo ascolta. Cassa di Rimanza. Una casa di Rimanza con corte musicale. A 4 mettiamo così ti puoi mettere direttamente il fatto della musica. Mi pare che sia. Ciao! Ciao! Bonsoir. Bonsoir.